Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17.10, ancora buonasera a tutti e benvenuti da Deborah Rosciani. Non siamo neanche partiti con la sigla che già gli ascoltatori chiedono cosa è successo a Barisoni e ritorna. Allora, lo dico subito, poi ve lo ricorderò ancora nei prossimi giorni, sperando naturalmente di non dover tornare frequentemente sull'argomento. Sebastiano Barisoni ha avuto un incidente. Sta bene, però è una questione che richiede per essere risolta qualche settimana di tempo, per cui per 3 settimane ci saremo io e Simone Spezia che ci alterneremo alla conduzione di Focus Economia. Mi dispiace se il programma vi piacerà un po' meno, però sono cose che capitano e qualche volta anche noi conduttori o abbiamo la febbre o abbiamo un impegno personale, quindi qualche volta ci dobbiamo allontanare dal lavoro come ogni comune mortale, per cui lo dico subito e sperando appunto di non doverci più ritornare e sperando lo stesso di mantenervi fedelmente qui all'ascolto del nostro programma, non solo nostro ma di tutta la radio. Allora, e questo è il preambolo, quello che dovevamo fare. Detto questo, di quali temi parleremo stasera a Focus Economia? Vi leggo la notizia che è arrivata un istante fa dalle agenzie: è stato raggiunto al Senato americano l'accordo sul shutdown e debito, e quindi lo ha reso noto la CNN. Gli Stati Uniti scongiurano il default, che sarebbe stato il primo clamoroso della storia del paese. A quanto pare appunto siamo arrivati ad un'intesa fra repubblicani e democratici. Le schermaglie sono continuate fino a pochi istanti fa, davvero qualcuno ha detto gli americani stanno giocando alla roulette russa, ma ieri è arrivato anche Fitch, l'agenzia di rating, che ha detto sbrigatevi a trovare un'intesa perché altrimenti anche noi saremmo costretti a declassare il debito, ma diciamo che qualora fosse arrivato il default nel giudizio dell'agenzia di rating, credo proprio che per Barack Obama sarebbe stato l'ultimo dei suoi problemi. Detto questo, ne parleremo più tardi con un collega giornalista del Wall Street Journal da New York e sentiremo un po' che aria tira in questo momento negli Stati Uniti dopo la notizia che vi ho letto appena appunto qualche istante fa. Al Senato è stato raggiunto l'accordo su shutdown e tetto del debito. Torneremo naturalmente sulla manovra di stabilità approvata ieri dal Consiglio dei Ministri in Italia. Commenteremo appunto con Guido Gentili i punti salienti di questa manovra, una manovra da 11,6 miliardi di euro per quello che riguarda il 2014, che prevede, come abbiamo anche raccontato ieri anticipandola per la verità con Dino Pesole, perché poi il Consiglio dei Ministri è iniziato dopo le 17 ed è andato avanti per un bel po' di ore, ma insomma ci sono degli impegni molto importanti in questa manovra: la riduzione del cuneo fiscale, la nascita del TRISE, questo nuovo tributo immobiliare che in qualche maniera prende il posto dell'IMU e della TARES, e poi tanti altri appunto elementi in questa manovra. C'è anche il blocco dei contratti nel pubblico impiego, i sindacati, come avete sentito anche nel giornale radio, sono già sul piede di guerra, immaginiamo uno sciopero probabilmente nelle prossime settimane per ovviamente dire no a questo punto della legge di stabilità. Ma ci sono anche tante altre cose e le commenteremo di nuovo dopo con appunto l'editorialista delle Sole 24 Ore Guido Gentili. Di quali altri temi parleremo? Allora, la borsa ha preso il volo nel pomeriggio, adesso sta andando decisamente bene, gli indici sono sui massimi, il mercato era totalmente convinto che l'intesa americana si fosse trovata, il Dow Jones adesso guadagna l'1,35%, Nasdaq più 1,22%, Standard & Poor's più 1,39%, l'Europa bene tutta con l'unica eccezione di Parigi che da stamattina è la piazza più debole del vecchio continente, continua a perdere meno 0,3% adesso, mentre Francoforte segna più 0,5%, Londra più 0,46%, Milano più 1,42%, bene tutte le banche, bene molto bene Mediaset. Lo spread è sotto i 230 punti base, livello che non vedeva da un paio d'anni, e queste sono appunto le notizie che riguardano la seduta sui mercati azionari ed obbligazionari. Parleremo del mercato dell'auto perché in Europa ci sono buone notizie, le immatricolazioni a settembre hanno rivisto il segno più, non accadeva da un bel po' di tempo. Naturalmente questo non accade però in Italia, spezzettando un po' la situazione paese per paese. In Italia abbiamo ancora un calo delle immatricolazioni complessivo, quindi le vendite proprio non riescono a riprendersi. Questi sono i principali temi appunto che affronteremo oggi. Tra l'altro c'è anche il bilancio di una società molto importante americana che è Intel, e intervisteremo più tardi il direttore generale del gruppo, del colosso mondiale dei semiconduttori, che ha visto un bilancio con utili che hanno battuto le attese di mercato, i ricavi sono piatti, cercheremo di capire dove fa acqua questo bilancio, quali sono le difficoltà del settore, dove invece appunto il gruppo sta andando particolarmente bene. Peraltro chiederemo anche al direttore generale di questa azienda come ha cambiato il mondo anche nel settore della tecnologia dopo l'acquisizione da parte di Microsoft del colosso finlandese delle telecomunicazioni Nokia, operazione avvenuta qualche mese fa. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, se volete intervenire sui temi del giorno. Adesso le notizie in breve. Vi vedo tutti molto solidali con Sebastiano Barisoni, che anche noi naturalmente salutiamo, anche se in questo momento non credo che ci potrà ascoltare, ma riporterò i saluti affettuosi di tutti. Andiamo ai temi del giorno. Allora, le materie prime, il tema con il quale cominciamo sempre le nostre notizie in breve. Oggi stabile le quotazioni dell'oro a 1272 dollari l'oncia, il petrolio stabile più o meno anche sulla chiusura di ieri a 101,7 dollari al barile. Allora, come dicevamo, è stato raggiunto poco fa, lo ha detto la CNN, l'accordo al Senato su shutdown e debito. Senza questo accordo la prima economia mondiale appunto sarebbe stata costretta oggi a dichiarare default, e invece a quanto pare siamo ormai possiamo appunto dire che questa circostanza è stata totalmente scongiurata. Dopo giornate molto frenetiche, intense di dibattito, giornate caotiche, i repubblicani in maggioranza alla Camera dei rappresentanti ieri avevano rinunciato a votare sull'innalzamento del tetto a fronte del mancato sostegno appunto dei membri del Tea Party. Ma il leader del Senato, il democratico Harry Reid, e il repubblicano Mitch McConnell avevano fatto sapere di essere impegnati a mettere a punto un'alternativa, e quindi è arrivato appunto questo accordo. Ieri anche l'agenzia di rating Fitch ha detto che sarebbe stata pronta a declassare il debito americano dopo che Standard & Poor's lo aveva fatto nell'estate del 2011, ma insomma ormai abbiamo superato tutto questo e più tardi ne parleremo un po' più approfonditamente. A settembre, andiamo in Europa, il mercato dell'auto ha chiuso con una crescita delle immatricolazioni del 5,5%, quindi sono state vendute in questo mese 1.194.216 vetture contro il 1.132.238 segnato esattamente un anno fa. Ad agosto il mese era stato ancora difficile, le vendite erano scese del 4,9%, i dati sono stati diffusi dalla CEA, l'Associazione dei costruttori europei. Come è andata singolarmente nei paesi dell'Eurozona? La Germania ha visto una flessione dell'1,2%, la Francia invece è in crescita, più 3,4%, Italia meno 2,9%. Non credo di sbagliare se leggo che per la Spagna l'aumento delle immatricolazioni è stato del 28%, in Gran Bretagna più 12%. A settembre Fiat cosa ha fatto in Europa? Ha immatricolato 64.806 nuove vetture e quindi ha avuto un calo rispetto ad un anno fa del 3,4%. Lo spread fra BTP e Bund è sceso poco fa, è successo nel pomeriggio, sotto la soglia dei 230 punti base per la prima volta dal luglio del 2011. Il rendimento del BTP a 10 anni è in questo momento al 4,32%. Nel secondo trimestre di quest'anno le persone in cerca di occupazione erano circa 3.100.000, il valore più elevato dal 1992, anno di inizio delle serie storiche monitorate dalla Banca d'Italia. Questi dati sono stati diffusi proprio oggi dalla stessa Banca d'Italia nel suo bollettino economico. Il tasso di disoccupazione è aumentato in misura più contenuta rispetto ai trimestri precedenti, raggiungendo il 12%, anche, dice la Banca d'Italia, per effetto del calo dell'offerta di lavoro. Il tasso di partecipazione alla forza lavoro è diminuito di mezzo punto percentuale al 63,4%. Altri dati diffusi dalla Banca d'Italia: l'occupazione è diminuita del 2,5% rispetto ad un anno fa, con un calo di 586.000 unità. Il crollo è consistente soprattutto al sud, con 335.000 unità in meno, pari a meno 5,4%. Banca d'Italia con soddisfazione dice anche se in realtà poi nei suoi bollettini non esprime particolari sentimenti, appunto l'organismo di via nazionale prosegue, dice la Banca d'Italia nel suo bollettino, la ripresa degli acquisti di titoli di Stato italiani da parte di investitori esteri. Recentemente questa circostanza era stata confermata e precisata anche dalla direttore generale del Tesoro, Maria Cannata. Nei primi 7 mesi del 2013 gli investitori non residenti hanno effettuato acquisti netti di titoli di portafoglio italiani per un ammontare pari a 26,7 miliardi a fronte di vendite nette per 51,4 miliardi. Gli investimenti netti in titoli di Stato favoriti da minori tensioni sui mercati del debito sovrano sono stati pari a 32,3 miliardi. Una famiglia italiana su 5 non riesce a far fronte alle spese con il proprio reddito. Il dato, riferito ad inizio ottobre, è nettamente peggiore rispetto a quanto ha fatto segnare a marzo, risulta dalle rilevazioni effettuate dal Censis nell'ambito dell'Outlook Italia Confcommercio Censis su clima di fiducia e aspettative delle famiglie italiane. Giuseppe Roma, direttore del Censis, intervistato da Cinzia Caserio. La percezione per 17 milioni di famiglie italiane è che si sia definitivamente abbassato il tenore di vita, e anche in posizioni le più differenti. Poi abbiamo una parte abbastanza rilevante delle famiglie italiane, circa 4 milioni e 700 mila, che non riesce a coprire le spese ordinarie mensili con il proprio reddito e che quindi sta mettendo mano al proprio patrimonio, e abbiamo anche notato che c'è una piccola quota di famiglie anche di reddito medio-alto che mette in vendita le proprie case per avere liquidità. La vera novità è che l'incertezza sta portando nelle famiglie un atteggiamento di attesa e di difesa, per cui anche chi ha risorse non spende e quindi i consumi languono. Ogni consumatore che acquista una macchina, ce ne sono altri due che rinunciano, almeno nel breve periodo, a acquistare un'automobile. Questo vale anche per l'arredo, per gli elettrodomestici. Il rapporto è sempre di un consumatore effettivo per due che avrebbero l'esigenza di comprare quel bene, ma che invece o lo rinviano o rinunciano. Ancora un paio di notizie prima del nostro approfondimento di oggi. Non hanno voluto operare una discontinuità, non siamo mai stati coinvolti, non c'è un capitolo aperto o chiuso, non c'è proprio una proposta se potremmo essere coinvolti in un secondo momento. No, per carità, in questo momento no, lo ha detto l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, a margine di una celebrazione alla stazione Tiburtina di Roma in merito alla vicenda Alitalia. Beh, ci mancava pure che in Alitalia c'entrassero le ferrovie insieme alle Poste, questo è un commento mio, poi non so cosa ne pensiate. L'ultima notizia. Il sistema costruito attorno al programma dell'F-35 porta a casa ricavi potenziali di 10 miliardi di dollari. L'F-35 è sempre bersagliato di critiche quando naturalmente si parla della necessità da parte dello Stato italiano di tagliare sulle spese. Naturalmente molti dicono: ma perché continuiamo appunto ad investire in questo, nell'industria aerospaziale? E ecco cosa dice l'amministratore delegato di Finmeccanica, Alessandro Panza. Dice che il sistema costruito attorno al programma dell'F-35 porta a casa ricavi potenziali per 10 miliardi di dollari. I ritorni occupazionali, ha aggiunto anche, dipendono dalla capacità che avremo di attrarre la manutenzione degli altri paesi europei e di quelli USA di stanza in Europa. Nel momento in cui fossimo in condizione di poterli attrarre, e pensiamo di poterlo fare, l'occupazione complessiva che negli anni si potrebbe generare è di 5.000 persone. Andiamo alla legge di stabilità. Allora, saluto subito Guido Gentili del Sole 24 Ore. Guido, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ribadisco solo per sommi capi i contenuti della manovra varata ieri in tarda serata dal Consiglio dei Ministri, un Consiglio dei Ministri piuttosto lungo, una manovra di stabilità che adesso passa, lo ricordiamo ancora, l'abbiamo già fatto ieri con Dino Pesole, all'esame di Bruxelles per il via libera da parte della Commissione Europea, una manovra che vale per il 2014 11 miliardi e 600 milioni di euro, prevede fra le altre cose la riduzione del cuneo fiscale da 3 miliardi nell'ambito di un piano triennale che porterà ad una riduzione complessiva di 10 miliardi e mezzo. Un miliardo va ai comuni sotto forma di allentamento del patto di stabilità interno, c'è la nuova TRISE che sostituisce TARES ed IMU. Sul fronte delle coperture sono previste delle riduzioni di spesa per 3,5 miliardi, nuove tasse per 1,9 miliardi di euro, dismissioni ed altro per circa 3,2 miliardi di euro. Sono stati scongiurati i tagli alla sanità che erano circolati appunto nel giorno precedente all'approvazione della manovra, che avevano fatto molto arrabbiare il ministro Lorenzin, e tanto altro ancora. L'editoriale di oggi sul Sole 24 Ore, firmato da Guido Gentili: idee buone ma poco coraggio, un po' come a scuola, Guido, si potrebbe impegnare molto di più perché ci sono le potenzialità ma non lo fa. Sì, poi ci sono anche le condizioni politiche, ci sarebbero con un governo di larghe intese, dovrebbe fare molto di più, invece non lo ha fatto. Si puntava in particolare sulla manovra per ridurre il cuneo fiscale che grava sul lavoro e imprese, e le cifre le hai ricordate tu, sono probabilmente realistiche per certi aspetti, perché vengono stanziati comunque 10,6 miliardi, ma la scalettatura nei termini fa sì che la manovra possa risultare sostanzialmente indifferente. E questa è la colpa più grave, per questo parliamo, diciamo, di poco coraggio. Qual è la misura, a parte questo giudizio appunto sul cuneo fiscale, isolando questo, la misura che ti appare particolarmente convincente, quale invece l'ambito su cui, appunto, cuneo escluso, sarebbe stato necessario essere più coraggiosi? Ma la misura più convincente per certi aspetti è il cambio di direzione che c'è stato nel rapporto tra i tagli di spesa e l'aumento della tassazione. Cioè, dopo molti anni torniamo, in particolare dopo un difficilissimo 2012, torniamo a vedere che il carico fiscale è cifrato in 1,9 miliardi, mentre invece i tagli alla spesa sono 3,2 miliardi, ancorché siano frutto non, e questo è un altro problema grosso, non di una spending review propriamente detta e quindi di un lavoro serio di razionalizzazione della spesa e di riparametrazione del perimetro dello Stato, ma sono i tagli cosiddetti lineari che conosciamo da tantissimo tempo. Allora, intanto anticipo che domani ci saranno altre 16 pagine in un speciale del Sole 24 Ore, così cambia il peso delle tasse sulla casa e sulla busta paga, chi guadagna e chi perde. Ti faccio sentire, Guido, un paio di commenti di oggi. Il primo è quello del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ribadisce un po' quello che già stavamo dicendo sul tema della riduzione del cuneo fiscale. La priorità in Italia è il costo del lavoro, ha detto il presidente degli industriali italiani, e serviva più coraggio. Passi sarebbero anche nella direzione giusta, però ancora una volta sono passi che non sono sufficienti per farci ritrovare la crescita. Vediamo, spero che si possa intervenire ulteriormente e fare qualcosa di più, perché non incidono realmente sul costo del lavoro che noi avevamo indicato come priorità assoluta sul cuneo fiscale. Sentiamo anche subito il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, che pure dice, lo sentirete in apertura, ci si aspettava molto di più. Noi ci aspettavamo molto di più e tuttavia è la prima volta dopo anni e anni che, più che caricarci di tasse, c'è un segno positivo meno riguardo alle tasse. E noi ci aspettiamo di più, però lo devono sapere tutti coloro che si aspettano di più come si fa a ottenerlo il di più. Si fa sconfiggendo il partito di chi vende e di chi compra col denaro pubblico, per le ruberie e per le inefficienze e sprechi che ci sono nella pubblica amministrazione. C'è un blocco di potere fatto di parte della politica e di parte dell'impresa che saccheggia la spesa pubblica. C'è un ascoltatore, Guido, che ci scrive, Marco, un ascoltatore scrive frequentemente appunto alle nostre trasmissioni, dice: sono anni che lo stipendio dei docenti è bloccato, ditelo voi dalla radio. Ed effettivamente sul blocco dei contratti nel pubblico impiego i sindacati sono già sul piede di guerra, pronti a scioperare. Ci saranno delle tensioni secondo te? Ma è possibile che su questo terreno, prima ascoltavamo il segretario generale della CISL Bonanni, che ha una forte rappresentanza nel pubblico impiego, è possibile, ripeto, che ci possano essere delle tensioni, perché effettivamente la situazione della pubblica amministrazione, se la andiamo a vedere dal lato che aveva sollevato l'ascoltatore, è quella che è, cioè è una situazione purtroppo dove gli stipendi sono fermi da troppo tempo, ma è il frutto delle tante scelte che sono state rinviate. Si è preferito mantenere sostanzialmente questo disastroso livello di strutturazione della pubblica amministrazione e magari a scapito di investimenti che andavano fatti e del merito anche per chi ci lavora dentro. C'è un altro tema che interessa a tutti e che è quello relativo all'aumento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. A partire dal prossimo anno passa l'1,5 per mille previsto per il 2013 al 2 per mille. Non era mai accaduto, come invece è successo negli ultimi due anni, Guido, che si agisse così tanto e ripetutamente con questa imposta di bollo sul risparmio degli italiani. È stato sventato l'aumento della tassazione sulle rendite, ma in ogni caso questa mini patrimoniale anche sul deposito titoli appunto rimane. Cosa ci vedi dietro a questo? Perché appare un modo molto semplice ed immediato per fare cassa, alla fine è comunque una bella patrimoniale, non è quella di Amato che fu appunto fulminea in una notte, ma questa è stata un po' diluita nel tempo, ma è stata lo stesso, mi sembra. Beh sì, è un modo per fare cassa in modo facile, con poca fantasia, e tra l'altro si va a colpire un settore che faticosamente si stava risollevando, perché gli ultimi dati indicano di un ritorno al risparmio delle famiglie. Fondi comuni di investimento sono ai livelli record, hanno praticamente cancellato tutta la crisi degli ultimi anni. Questo ovviamente segnala un problema che è anche quello che noi vediamo d'altra parte, un grande ristagno dei consumi, quindi vuol dire che appunto le imprese, le famiglie in particolare risparmiano, sono tornate a risparmiare, ma non spendono. Ora, questi segnali ovviamente non vanno in direzione anche di difendere il risparmio, che è un bene prezioso. L'ultima considerazione, Guido, ora il timore non del tutto infondato, lo dicevi anche tu questa mattina nell'editoriale, che il passaggio in Parlamento non si trasformi in un assalto alla diligenza, ma insomma l'esperienza del passato interessa qualcosa, mediamente qualche cosa si fa di cambiamento. Secondo te dove si interverrà? Quali lobby sono al lavoro in queste ore? Sono tutte al lavoro le lobby, questo va detto con grande franchezza. Noi siamo di fronte a una maggioranza cosiddetta delle larghe intese, ma all'interno della stessa maggioranza ci sono delle piccole intese da far quadrare, perché nel PD ci sono i renziani, i bersaniani, nel PDL ci sono i diversamente berlusconiani e i lealisti, la stessa lista civica di Monti, c'è grande divisione all'interno e quindi il governo deve mediare anche all'interno della maggioranza e quindi diciamo c'è un buon spazio per le lobby su cui agire. Grazie Guido Gentili, buona serata, buon lavoro. Noi ci fermiamo adesso perché abbiamo il nostro primo blocco pubblicitario, ma poi ritorniamo per raccontarvi questa giornata di borsa che era già partita benino, poi nella seconda parte della giornata si è rafforzata, d'altronde arrivano buone notizie dagli Stati Uniti, l'accordo al Senato sul tetto del debito sarebbe stato raggiunto, Milano si sta apprestando a chiudere la sua seduta con un rialzo dell'1,45%, a tra poco. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buonasera da Deborah Rosciani. Allora, volevo leggere una notizia per alcuni dei nostri ascoltatori che da un paio di giorni ci stanno chiedendo di approfondire un tema che è circolato sui siti di informazione finanziaria, ma non solo. Una notizia relativa al fatto che sarebbe circolata appunto una ipotesi secondo la quale il Fondo Monetario Internazionale starebbe ipotizzando, avrebbe fatto delle valutazioni paese per paese su un possibile prelievo forzoso appunto sui conti correnti. Il Fondo Monetario Internazionale su un tweet, perché adesso la maniera di comunicare è quasi esclusivamente questa, non ci sono dei comunicati stampa ufficiali, sono passati di moda, su Twitter il Fondo Monetario ha fatto sapere che non esiste nessuna proposta né ipotesi né idea l'idea da parte del Fondo Monetario Internazionale di prelievo forzoso sui conti. Il cinguettio dell'Istituto di Washington arriva dopo che alcuni media hanno sostenuto che appunto il Fondo Monetario stava consigliando una patrimoniale una tantum per ridurre il debito pubblico dei paesi dell'area. Adesso andremo a vedere meglio un po' esattamente magari questa indiscrezione su che cosa poggiava, perché dubito che si fosse diffusa così senza senso. Prima di tutto questo però direi di andare a raccontarvi la giornata di borsa. Ceo Condina, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, andiamo un po' a vedere qua l'Europa come sta chiudendo. Parigi, l'unica piazza del vecchio continente con il segno meno 0,29%. Francoforte più 0,47%, Londra più 0,44% e Milano scatta in avanti rispetto a tutte le altre, segna più 1,45% sulle FTSE MIB. Direi che è un po' merito degli Stati Uniti con l'accordo poco fa raggiunto al Senato sul tetto del debito, un po' forse anche a Piazza Affari, non so, è piaciuta la legge di stabilità, Ceo? Diciamo che alcune aziende sono salite anche grazie a questo, essenzialmente poi lo sprint delle borse. Ricordiamo che in mattinata le borse europee erano tutte negative a eccezione di Milano, Milano guadagnava lo 0,6%, dunque uno sprint che è arrivato soprattutto grazie a Wall Street, che ha aperto forte e adesso è arrivata a guadagnare più di un punto percentuale. Certamente poi Milano, come dicevi tu, è la maglia rosa, spinta dalle banche con lo spread sotto 230 punti base per la prima volta da maggio 2011, ma anche da alcuni big delle energie ed anche da alcuni big controllati dallo Stato come Eni ed Enel. In questo caso, proprio in questo caso, gioca sicuramente un ruolo l'approvazione della legge di stabilità, che soprattutto per gli investitori stranieri ha portato a guardare con maggiore, diciamo, fiducia a quelle che sono delle aziende simbolo del nostro paese. E però la regina della giornata è il biscione, Mediaset più 6,75%, a cosa si devono tanti acquisti? Mediaset, anche qui siamo ai massimi da maggio 2011. Sicuramente c'è il fatto che oggi c'è stato il roadshow a Milano per l'eventuale emissione di un bond che sarebbe quantificato in 500 milioni. È plausibile che in questa sede i vertici di Mediaset abbiano fornito indicazioni agli analisti diciamo sull'andamento del business e su quello che potrebbe essere la chiusura di quest'anno. Indicazioni sull'andamento del business in realtà erano già arrivate nel corso degli ultimi giorni con una raccolta pubblicitaria che per fortuna, insomma, delle televisioni comincia ad arrestare l'emorragia. Infatti nel terzo trimestre rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso Mediaset ha praticamente effettuato la stessa raccolta. Potrebbe essere, insomma, lo speriamo un po' tutti noi dei media, una possibile inversione di rotta. Sì, sicuramente questo lo speriamo tutti, però quello che incuriosisce è che una società va a presentarsi alla comunità finanziaria e dice emetteremo un bond anche piuttosto corposo, quindi ci indebitiamo, e il titolo fa più 7% in borsa. Boh, queste dinamiche però, come dire, al popolo forse sono un po' incomprensibili. No, spesso accade che magari diciamo ci sono state moltissime emissioni quest'anno di bond, anche perché il mercato è particolarmente favorevole. Nel caso di Mediaset o di altre società potrebbe anche essere che il bond va a rifinanziare dei debiti bancari che erano più onerosi, ecco. Il mercato li prende. E quindi vista da questo punto di vista la notizia è positiva. Terna più 3,66%, un po' abbiamo anche spiegato come gli acquisti abbiano colpito, anche abbiano riguardato titoli in qualche maniera anche riconducibili allo Stato. Ecco, su Terna poi ci sono altre ragioni specifiche, Ceo. Sì, c'è la questione della Robin Hood Tax, che banalizzando possiamo dire che è una tassa addizionale che viene applicata ai profitti delle società energetiche. Diciamo che la tabella di marcia della Robin Hood Tax prevede che fino alla fine di quest'anno ci sarà un'aliquota al 10,5% e dall'anno prossimo si scenderà al 6,5%, quindi non è una, diciamo, non è un passaggio da poco. Il fatto che nella legge di stabilità non sia stato previsto nessun cambiamento a questa tabella di marcia, che è evidentemente favorevole per questi, insomma, per questi gruppi energetici, ha immediatamente galvanizzato gli operatori sul mercato. Infatti Terna fa più 3,6%, un'altra azienda che è stata colpita parecchio dalla Robin Hood Tax è Snam, che infatti fa più 2,2%, ma non dimentichiamoci di A2A più 2,8% e poi le stesse Eni ed Enel, anche se comunque sono soggette a questa addizionale IRES. Hanno brindato le banche grazie allo spread sotto i 230 punti base per la prima volta da luglio del 2011. Eh sì, è calato, le banche poi insomma in questi giorni circola l'ipotesi sempre più concreta della rivalutazione delle quote in Banca d'Italia, che potrebbe migliorare, diciamo, diciamo, i coefficienti patrimoniali di diversi istituti, tra cui soprattutto quelli dei big. Infatti oggi Intesa fa più 3,3%, ma poi anche le popolari. Anche se bene. Ha in corso delle ispezioni della Banca d'Italia, se non ho letto male stamattina dai giornali. Sì, diciamo che poi i grandi banchieri nelle prossime settimane dovranno andare da Visco a prendere coscienza di quelli che potrebbero essere anche i nuovi criteri per la valutazione dei crediti deteriorati. Insomma, diciamo un momento molto caldo per le banche, però l'ipotesi di una rivalutazione delle quote in Banca d'Italia sicuramente stuzzica molto il mercato. Allora, diciamo un po' le percentuali: per la Popolare dell'Emilia Romagna più 3,41%, per la Popolare di Milano più 3,40%, Intesa l'abbiamo detta, bene Telecom più 3,13%, Finmeccanica più 3%, A2A più 2,84%, oggi bene anche Monte dei Paschi in rialzo del 2%, Fiat meno 4 punti, qua dopo i dati sulle matricolazioni europee che ancora una volta danno il segno meno sul lingotto, invece le altre società si stanno cominciando a riprendere, il mercato complessivamente si riprende, ma Fiat non aggancia questa ripresa. Diciamo che a settembre no, nei mesi precedenti insomma calava il mercato e calava Fiat. In effetti guardando i dati di settembre, nell'Unione Europea le immatricolazioni di auto nuove crescono rispetto all'anno scorso, quindi rispetto a settembre 2012, del 5,4%, invece la Fiat frenano ulteriormente del 3,4%. Il fatto che il mercato cresca e Fiat cali poi influenza particolarmente poi la quota di mercato di Fiat, che ovviamente cala in maniera rilevante, quindi dal 6% di settembre 2012 al 5,5% di oggi, quindi un bel calo di mezzo punto. È stata un'altra volta una giornata difficile per il settore del lusso, particolarmente Salvatore Ferragamo, che ha perso più del 3%, ma è andata male anche Tozzi. Certo che a guardare il grafico di Salvatore Ferragamo da 2 anni a questa parte è praticamente una verticale, quindi direi che anche diverse 9 euro, esatto, diciamo che 24,6. Ecco, anche diverse giornate di calo non è che le facciano poi tanto male, però ci sono delle ragioni specifiche per cui il lusso sta frenando in questa maniera? Ma direi di no. Oggi c'era anche un report di Mediobanca che sottolineava come il lusso abbia sì dei punti interrogativi, come la possibile ulteriore espansione in Cina o nel sud-est asiatico, ma anche dei punti di forza, quindi non ci sono motivi negativi, come dicevi giustamente tu, sono delle giornate in cui qualcuno preferisce magari comprare le banche e vendere il lusso. Anche Tozzi ha perso lo 0,8%, insomma anche Luxottica, vabbè, che non è perfettamente assimilabile al lusso, comunque ha guadagnato solo lo 0,4%. Allora, un'altra giornata da 8 volante per i titoli del calcio. Per 2 giorni consecutivi sia i titoli della Juventus che quelli della Lazio che quelli della Roma hanno messo a segno rialzi fra il 20 e il 30%. Abbiamo già spiegato ieri che qua, anche se si negoziano pochi contratti, chiaramente le performance sono ben diverse da quelle dei titoli a maggiore capitalizzazione, però oggi comunque queste società hanno bruciato tutto quello che hanno guadagnato ieri. Ma che succede dietro tutto questo movimento? Chi c'è che è tanto interessato a mettere le mani e poi il giorno dopo abbandonare questi titoli? Ma guarda, sinceramente non l'ha capito nessuno. Esatto. Una spiegazione, diciamo, che razionale non è che si può dare, anche sentendo qualche operatore, essenzialmente il fatto che la Roma ha iniziato questo rally, come si dice in gergo, il 4 ottobre, e da quel giorno ha guadagnato quasi 188%, e la Roma era capolista del campionato. Poi diciamo che si sono accodate a partire dal 10 ottobre la Juve e la Lazio ha raddoppiato la capitalizzazione, la Juve ha fatto più 65%, quindi evidentemente magari via via gli operatori si sono convinti, insomma, dell'opportunità di puntare su questi titoli che comunque erano scesi molto. È chiaro che poi oggi sono arrivati questi realizzi importanti. Le spiegazioni che vengono addotte sul mercato sinceramente non mi sembrano convincenti, al di là della una legge sui stadi di proprietà, cosa che la Juve poi peraltro ha già. L'unica cosa che mi verrebbe da pensare è un possibile delisting di questi titoli, però anche su questo versante non c'è nessuna conferma, insomma. Vedo intanto, per l'ascoltatore che ce lo chiede, che sta scendendo parecchio l'euro sul dollaro a 1,3485, che sa se è l'effetto dell'Intesa americana. Intanto grazie a Ceo Condina, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Rapidissimi suggerimenti per chi è in viaggio, poi a tra poco. Potete anche citare Unicredit, che è da lungo tempo che non lo fate, grazie, ci scrive Mattia. Evidentemente non c'erano dei movimenti vistosi tali da dover essere commentati, ma la accontento subito se trovo il titolo, oggi più 1,55%. Lasciamo però le società quotate a Piazza Affari, andiamo a quelle quotate sul mercato americano e parliamo di Intel. Negli Stati Uniti, a parte la discussione molto forte sul tema del tetto del debito, siamo ad una risoluzione a quanto pare, scongiurando così il default degli Stati Uniti, siamo però anche nel pieno della stagione della diffusione delle trimestrali e sono stati diffusi nelle ultime ore anche i conti di Intel, il colosso mondiale dei semiconduttori, che ha battuto le aspettative del mercato per quello che riguarda gli utili, ma registra, dicono gli analisti e i giornalisti del settore, ricavi piatti. Per il terzo trimestre dell'anno, che è terminato il 28 settembre scorso, il gruppo ha segnato utili netti per 2 miliardi e 950 milioni di dollari contro i 2 miliardi e 970 dello scorso periodo dello scorso anno. Carmine Stragapede, nuovo direttore generale di Intel, buonasera. Buonasera. Nuovo direttore da quanto tempo? Circa un mese. Ah, benissimo, quindi proprio la teniamo a battesimo dal punto di vista, presto, non so presto. Se ha rilasciato già molte interviste, ma insomma allora in bocca al lupo naturalmente prima. Grazie. Ancora di commentare questi risultati. E che cosa ci dicono questi risultati, dottor Stragapede? Insomma, meglio battere le aspettative per quello che riguarda gli utili o i ricavi, visto che sono stati definiti piatti? Ma innanzitutto, diciamo, il primo aspetto importante è essere riusciti ad avere una trimestrale in linea con le attese. Dopodiché i risultati, diciamo, vedono da una parte un mercato del personal computer che continua a soffrire leggermente, diciamo così, dall'altra parte... Per colpa del tablet? Per colpa, diciamo, tablet è sicuramente un'opportunità. Se andiamo a vedere il personal computer più il tablet, registriamo una crescita in questo mercato del 5%. Il personal computer da solo, nonostante abbia ancora volumi estremamente importanti, e poi stiamo cercando di portare innovazioni che rivitalizzano ovviamente questo mercato, è ancora in sofferenza. Interessante invece notare che il mercato dei computer per l'infrastruttura, quindi i server che alimentano le grandi aziende, i data center e i servizi in cloud, questi stanno crescendo. Abbiamo registrato un'ottima performance di circa 3 miliardi di dollari e questa è una bella contribuzione poi all'utile netto del trimestre. Un altro ambito di grande difficoltà, che probabilmente non riguarda solo voi ma tutti i fornitori di microchip, è il mobile, credo, non so, dottor Stragapede, mi scusi per il cognome, lei probabilmente non sono la prima che fa difficoltà. È complesso. Ecco, nel settore del mobile appunto, come sta andando? Allora, in questo ambito sicuramente il tablet sta continuando a crescere e per questo dovremmo vedere a breve anche l'introduzione di diversi dispositivi basati su architettura Intel, perché di sicuro il tablet cresce, è un pezzo importante del mercato del personal computing e qui chiaramente vogliamo giocare una parte da protagonisti. Per questo abbiamo appena annunciato e arriveranno sul mercato a breve tutta una serie di prodotti basati su una nuova microarchitettura che risponde espressamente alle esigenze di chi ha bisogno del tablet in estrema mobilità. Come è cambiato il vostro mercato di riferimento con l'acquisizione da parte di Microsoft e di Nokia? Ma diciamo, su questo fronte non abbiamo molto da commentare, nel senso che Microsoft è un partner importante con noi, un nostro partner importante. Stiamo lavorando assieme in maniera piuttosto intensa per sviluppare il mercato del tablet con Windows 8, in particolare siamo in attesa della nuova versione 8.1, sul mercato professionale. Questo è un ambito che potrebbe riservarci, diciamo, delle buone soddisfazioni su breve. Mi hanno detto che in casa Intel si sta progettando un computer percettivo. Ma è così? Siete così visionari diventati? Allora, noi ci stiamo focalizzando moltissimo su migliorare l'esperienza utente e fare in modo che l'utente possa trarre il meglio dall'utilizzo del proprio personal computer. Quindi stiamo cercando di mettere a disposizione della comunità degli sviluppatori, che è molto grande in giro per il mondo, una serie di funzioni che aiutino a utilizzare il computer non più con la tastiera, o meglio, non solo con tastiera e col touch, ma si comincia a parlare anche di riconoscimento facciale, di riconoscimento dei gesti e riconoscimento della voce. Ecco, queste caratteristiche le vogliamo portare proprio a, diciamo, su ampia scala, e stiamo lavorando in maniera molto intensa per metterle a disposizione il più rapidamente possibile. Entro quanto vedremo il primo computer secondo queste caratteristiche? Allora, non possiamo dare delle tempistiche specifiche, purtroppo, però diciamo che i primi strumenti per cominciare a sviluppare queste applicazioni sono già disponibili e il poter utilizzare la voce e magari rimuovere tutte le password grazie al riconoscimento facciale sono due aspetti facciale importanti. Neanche vocale. Grazie, allora mi raccomando, non appena lo avete pronto ce lo venga a raccontare. Grazie a Carmine Stragapede, direttore generale di Intel Italia. Abbiamo ancora tanti argomenti dei quali occuparci. Ancora buonasera da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Focus Economia. Partiamo molto rapidamente col tema del mercato dell'auto in Europa, perché ci sono buone notizie per quello che riguarda il mercato complessivo, che torna ad essere in crescita. A settembre più 5,5% per le vendite di nuove auto nell'Eurozona. Ad agosto erano scese del 4,9%, ma in verità il segno meno c'era da moltissimi mesi. Non va bene invece per l'Italia, che non riesce a riagganciare la crescita. In quali paesi si è fatto meglio e quali peggio? Quali brand hanno fatto meglio e quali peggio? Gianprimo Guagliano, presidente del Centro Studi Promotor, buonasera. Buonasera Deborah. Allora, è una buona notizia sicuramente complessivamente per l'industria dell'auto, un segno più che non si vedeva da quanto? Beh, non si vedeva da molti mesi, da moltissimi mesi. C'era stata una piccola interruzione in primavera, ma poi comunque il quadro è negativo praticamente dall'inizio della crisi. Infatti. Allora, chi ha fatto meglio? Questa Spagna, sulla quale abbiamo già detto prima, io addirittura pensavo di aver sbagliato percentuale, più 28% delle immatricolazioni in settembre. C'è stato qualche piano particolare in questo paese in termini di incentivi? Sì, c'è un piano che è in corso, però il confronto di questo settembre si fa con un settembre 2012 che era particolarmente depresso perché entrò in vigore un aumento dell'IVA. E quindi ci fu un agosto molto interessante perché molti acquisti vennero anticipati. Poi settembre pagò il prezzo dell'aumento dell'IVA e di conseguenza le immatricolazioni furono basse. Quindi questo 28% in più si spiega così, ma comunque si spiega anche con il funzionamento di un piano di incentivi che è in corso da qualche mese e che sta dando qualche risultato. Infatti anche il consuntivo dei primi 9 mesi per la Spagna è quasi positivo, meno 1,6. Un altro paese in cui c'è stato un vero e proprio boom delle vendite è stato la Gran Bretagna, più 12%. Sì, beh, qui non è tanto un boom. La Gran Bretagna sta andando molto bene da diversi mesi, da diverso tempo, ed è soprattutto perché è un paese dell'Unione Europea, ma è fuori, insieme ad altri paesi, dall'area euro. Quindi non risente delle politiche di austerity che caratterizzano l'area euro, anzi ci sono politiche espansive che fanno sì che il mercato dei paesi dell'Unione Europea non euro cresca in questo periodo, nei primi 9 mesi dell'anno, del 6,6%, e quindi è un dato che è in linea con il mercato mondiale che è in crescita, mentre nei paesi della zona euro il mercato cala del 7,6%. Le ragioni sono quelle che sono note a tutti. Allora, facciamo invece il bollettino di guerra di Fiat, Gianprimo. Beh, il bollettino di guerra di Fiat dipende essenzialmente da due situazioni. La prima è che cala fortemente il mercato italiano, quindi sulla quota europea di Fiat una parte importante è costituita dal mercato italiano. Se il mercato italiano cala, quindi cala anche la quota di Fiat in Europa, ma la quota di Fiat cala anche in Italia, e questo per due ragioni. Uno, per la politica di modelli non particolarmente aggressiva fatta da Fiat, perché Fiat punta a lanciare modelli nuovi quando si delineerà una ripresa, e poi perché soprattutto negli ultimi mesi Fiat sta facendo una politica più attenta a salvaguardare la redditività dei concessionari e della casa stessa che non ad aumentare le vendite, cioè non partecipa a campagne di prezzi particolarmente aggressive. C'è un ascoltatore che prima, quando nella prima parte di Focus Economia avevo già dato delle anticipazioni relativamente a questi dati sull'andamento del settore auto europeo e avevo già detto che avremmo commentato insieme appunto queste statistiche, un ascoltatore chiedeva: ma secondo voi il calo del mercato dell'auto italiano, che ormai persevera da anni, è dovuto anche all'introduzione del redditometro? Io direi che non c'entra nulla, Gianprimo, perché qua stiamo parlando di una tendenza avviata da tempo che ha a che fare con la crisi, un bene durevole che non si compra perché in genere si compra finanziandolo a rate e le banche hanno chiuso anche i rubinetti del credito da tempo. Secondo te incide anche però questo monitoraggio appunto dell'Agenzia delle Entrate? Secondo me incide in maniera molto molto marginale, mentre incide in maniera molto pesante l'eccesso di tassazione che grava in Italia sull'auto. Mm. Ma non è però la sola ragione, c'è anche un caro benzina, c'è anche un caro assicurazioni, sì. Ci sono le difficoltà del credito, ma soprattutto mi pare che ci sia una situazione di criminalizzazione dell'automobile che viene portata avanti da molti mesi e che fa riferimento anche a notizie poco attendibili, come ad esempio l'elevatissimo tasso di motorizzazione italiana, il fatto che le biciclette abbiano superato le automobili nella classifica delle vendite, che non è vero, perché le biciclette non c'è nessun boom, ma sono in forte calo anche le biciclette, semplicemente sono calate meno dell'automobile, e tutta una serie di altre informazioni tendenti a demonizzare l'automobile e quindi ad impedire che vengano poi presi provvedimenti che possono alleviare la situazione di questo mercato, quindi ridare fiato alla Grazie, grazie Gianprimo Quagliano, buona serata. Grazie a voi. Devo andare rapidamente al tema successivo, perché si apre domani a Verona il forum eurasiatico, 1000 partecipanti, circa 600 aziende, un appuntamento che c'era già stato anche lo scorso anno e che vede partecipare il 20% di aziende in più rispetto al 2012. Multinazionali, imprese italo-asiatiche, banche, fondi di investimento, ministri, aziende e istituzioni di Russia, Bielorussia, Kazakistan, Ucraina, delle new entry Uzbekistan, Azerbaigian, Turkmenistan, io insomma lo dico malissimo, da domani fino a venerdì 18 ottobre saranno impegnati al vertice economico organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia, Intesa San Paolo e Gazprom Bank. Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia dell'associazione Conoscere Eurasia, buonasera. Buonasera. Allora, qual è il valore appunto di un convegno, di un appuntamento di questo tipo? Quali obiettivi ha appunto soprattutto per l'industria italiana, dottor Fallico? Ma noi pensiamo di fare anche quest'anno, come l'anno scorso, il punto sulle relazioni economiche e commerciali fra l'Italia e questi paesi, e riteniamo appunto che nei prossimi 2 anni soltanto con la Russia ci sarà un incremento del 24% dell'interscambio. Oggi l'interscambio italo-russo ascende a circa 28 miliardi di euro e noi riteniamo che nei prossimi 2 anni, 2014-2015, ci sarà un incremento del 24%, mentre in questo momento arriva al 37% l'interscambio tra l'Italia e la cosiddetta Unione Doganale, che è composta da Russia, Bielorussia e Kazakistan. E noi pensiamo che entro il 2015 questo interscambio possa sfondare i 40 miliardi. Quali sono gli ambiti del Made in Italy che saranno particolarmente interessati dall'intensificarsi appunto di questo interscambio commerciale? Perché le cifre ci appaiono davvero interessanti, dottor Fallico, da dire poco. Diciamo che noi non affrontiamo nel nostro forum i settori merceologici che già hanno un grande successo, come appunto la moda, l'abbigliamento, il settore mobili. Ne affrontiamo argomenti tipo l'energia, l'economia e la finanza, il food e l'agroindustria, le start-up innovatrici e le aziende innovatrici, le infrastrutture e l'ambiente. Noi pensiamo che in questi ambiti, che sono appunto oggetto delle varie sessioni, si possono cogliere delle opportunità ancora notevoli. Qual è la reputazione che ha l'Italia nei confronti dei paesi dell'Unione Doganale, che devo dirle è la prima volta che ne sento parlare? Com'è nata tra l'altro questa unione, dottor Fallico, questa intesa fra Russia, Bielorussia e Kazakistan? È nata alcuni anni fa, dall'anno scorso è effettiva, cioè c'è il libero scambio delle merci e delle persone, e gradualmente va arricchendosi, va allargandosi. Oltre alla Russia, Bielorussia e Kazakistan, ci sono trattative per avere l'Ucraina come un paese osservatore, ovviamente. Ci sono iniziative che tendono a far aderire anche l'Uzbekistan e l'Azerbaigian, nonostante la loro collocazione geopolitica non in linea con quella della Russia, e quindi diciamo è un'idea molto, molto interessante. Per farle un esempio banale, se lei esporta una merce a Brest, da Brest praticamente la può fare spostare senza pagare ulteriori dazi e non avere l'accelerazione fino alla Cina. Quindi è un fatto molto importante. Benissimo. Dottor Fallico, io la ringrazio, le faccio l'in bocca al lupo per questo appuntamento, appunto come Grazie. Si sta preparando anche Verona a questa accoglienza di tutti questi imprenditori che arrivano da queste aree. È tutto pronto? Grazie tante. Grazie a lei. Grazie a lei. Ci fermiamo, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi andiamo naturalmente da Mario Platero per sentire un po' di questo accordo che è stato raggiunto al Senato che evita il default americano. A tra poco. Allora, spero di riuscire a collegarmi entro qualche istante con Mario Platero da New York per il Sole 24 Ore, perché chiaramente, anche se poi tutto sommato ci credevano tutti, nessuno pensava che gli americani potessero essere così irresponsabili al punto da non trovare un accordo politico, un'intesa politica appunto per scongiurare il default dalla mezzanotte americana di oggi. E però insomma siamo stati un pochino con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Eppure l'accordo, almeno al Senato, per innalzare il tetto del debito e riaprire tutto sommato gli uffici federali, il governo americano è stato raggiunto al Senato, e non appena il progetto sarà definito ufficialmente andrà alla Camera per il primo voto, che è considerato sicuramente più difficile. L'obiettivo è quello di ottenere una maggioranza bipartisan con il voto di centristi, democratici e repubblicani, che isoleranno in questa maniera un po' le fronde estreme che si sono opposte anche all'intesa appunto raggiunta secondo i termini che vi ho appena raccontato. Sono soprattutto gli irriducibili del Tea Party che hanno sempre bloccato qualsiasi ipotesi di soluzione, insomma evidentemente si divertivano all'idea di un paese come gli Stati Uniti che non potessero più andare sul mercato. Mario Platero da New York, buonasera. Buonasera. Allora, al Senato ci siamo arrivati, adesso però il progetto va alla Camera e deve ottenere il voto più difficile. Deve ottenere il voto più difficile, ma è possibile che l'ordine sia inverso, nel senso che quel che è successo è che il Senato è riuscito a raggiungere un compromesso su questo progetto bipartitico e a questo punto bisogna andare alla Camera per primi, questo è l'obiettivo. Cioè quando la legge sarà, diciamo così, dal punto di vista formale pronta, sarà inviata direttamente alla Camera, perché c'è un rischio al Senato, c'è il rischio di una melina da parte di alcuni senatori che potrebbero ritardare il voto, mentre alla Camera questo non c'è. Allora il passaggio è, il compromesso è fatto, la legge è formalizzata, viene inviata immediatamente alla Camera, la Camera dovrebbe votare al più presto, dovrebbe esserci un voto bipartisan. Mannaggia, Mario è credo in viaggio e lo stiamo perdendo. Comunque abbiamo capito quello che sarà la differenza del passaggio formale appunto per il via libera a questa legge. Prima si va alla Camera e poi al Senato, appunto, dove invece ci sono queste frange estreme che vorrebbero per la verità ostacolare il proseguimento di questa iniziativa. Di fatto però, che si vada prima alla Camera o al Senato, l'intesa è stata raggiunta, viene così scongiurato il pericolo del default americano, di un'insolvenza degli Stati Uniti che sarebbe stata clamorosa, la prima della storia. I mercati non credevano al rischio, anche se sapevano che la follia politica avrebbe potuto portarli sull'orlo del disastro. Qualcuno aveva anche parlato proprio di un gioco alla roulette russa da parte dei politici americani. Il segretario al Tesoro Jack Lew aveva stabilito, come nella mattina del 17 di ottobre, come giorno X, quindi domani, per il fallimento. Aveva qualche giorno fa indicato anche che per quel giorno l'America avrebbe avuto in cassa soltanto 30 miliardi di dollari, una cifra a cuscinetto che avrebbe coperto le ultime spese per una o due settimane. Mario, ci sei ancora con noi? Eccoci. Abbiamo di nuovo, ripristinato, scusate, il collegamento? Siamo, no, sì. Ci stavi spiegando, dunque, questo so passaggio. Avevo lasciato, vi dicevo, il progetto di legge una volta che sarà votata la Camera va al Senato, e poi dove il voto è scontato e poi andrà per la firma al Presidente. Il tempo stringe, l'obiettivo è di chiudere tutto entro stanotte per dimostrare agli americani che nonostante le interferenze di questi irriducibili, che poi sono 24 questi deputati del Tea Party che riescono a bloccare il Parlamento, ecco, nonostante questo poi la politica riesce a funzionare e a evitare che si vada, come aveva detto Nancy Pelosi, verso l'abisso. Ecco, quindi un compromesso, ma tra l'altro questo passaggio formale che ci indicavi, Mario, prima alla Camera e poi al Senato, è un qualcosa che si può fare mediamente o che viene fatto solo in circostanze straordinarie come questa? Ma dunque, sembra che si possa fare, perché è un progetto di legge che è stato, diciamo, messo a punto da una delle Camere, però poi viene messo al voto dall'altra Camera. Non è chiaro che la Camera accetti questa procedura. E allora a questo punto dobbiamo aspettare e capire se Boehner riuscirà diciamo così, a imporre questa cosa, questa base sempre irrequieta. Ma questo è il piano, questo è il progetto. Per dirti che cosa? Per dirti che secondo me al di là delle incertezze alla Camera, al di là del fatto che possa esserci qualcuno al Senato come il senatore Ted Cruz del Texas che potrebbe fare ostruzionismo e ritardare di un giorno o due il voto, ecco, l'accordo è fatto, anche se si supererà la mezzanotte di oggi senza la firma del Presidente, senza un voto formale, gli Stati Uniti non falliranno, perché ci sono, sentivo che lo dicevi poco prima che ci ricollegassimo, ci sono ancora 30 miliardi di dollari che consentiranno all'America di pagare tutti i suoi debiti per due settimane, quindi questa scadenza del 17 era una scadenza, diciamo così, una deadline, era un punto di riferimento entro il quale diciamo, bisognava passare questa proposta per avere i tempi tecnici, poi per organizzare il processo di rifinanziamento, eccetera, eccetera. Certo. Quindi io credo che a questo punto una buona certezza possiamo dire che questa crisi è superata, è archiviata, speriamo, ovviamente, teniamo le dita incrociate. Ci sono un po' di procedure da mettere a punto, ma entro stanotte o al più tardi, entro domani o dopodomani, noi avremo un innalzamento del tetto sul debito fino al 7 di febbraio, avremo una riapertura del governo americano immediata fino al 15 di gennaio. Cominceremo e ritorneremo a vedere tutti i dati macroeconomici che ogni giorno noi qua in Italia alle 14.30 aspettiamo sempre di vedere, perché danno un po' la direzione al mercato, Mario, quindi ripristiniamo un po' la normalità. Sì, esatto, torniamo alla normalità e soprattutto da qui ad allora riprenderà il negoziato, perché sono state indicate, diciamo, in questa legge dei punti di riferimento sui quali operare e lavorare. Perché questo è un accordo temporaneo, non dimentichiamolo, si tornerà al tavolo del negoziato, Barack Obama è pronto a cedere qualcosa sull'Obamacare, in particolare metodologie per calcolare i redditi minimi che potranno avere l'assistenza gratuita, cosa su cui i repubblicani puntavano, alcune spese di assistenza sociale di altro genere potrebbero essere messe sul tavolo, la diminuzione di una tassa su certi macchinari medici potrebbe essere di nuovo presa in considerazione e quindi ci saranno una serie poi di tematiche che saranno affrontate sul tavolo del negoziato, con la speranza che non ci ritroviamo punto e a capo al 15 di gennaio. Infatti. Allora Mario, noi dobbiamo salutarti perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, resta da capire, magari lo scopriremo nei prossimi giorni, grazie, che cosa insegna tutta la politica americana questo gioco al massacro che è durato fino a due secondi fa. Grazie a Mario Platero per essere stato con noi, grazie a Mauro Del Corno, a Barbara Bianchi perché mi aiutano ogni giorno a costruire la puntata di Focus Economia, saluto tutti gli ascoltatori. Saluto Paolo Corleoni per l'assistenza tecnica, noi ritorniamo domani, naturalmente. Buona serata a tutti.